Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata di Focus Economia della settimana. I temi di questa giornata economico-finanziaria: poca finanza oggi, devo dire che la borsa è sostanzialmente invariata, lo 0,02% di rialzo non è cosa, è un prefisso telefonico, così come a Francoforte meno 0,1% o Londra più 0,07%, e Parigi meno 0,36%, l'America più 0,41%. Forte l'euro, vicino a quota anche 1,45 sul dollaro. Tra i titoli si segnala soprattutto l'automatica, più 6% in questo momento, e bene anche il Monte dei Paschi, più 1,70%, Popolare di Milano più 1,1%. Chi perde Mediolanum, dopo la corsa di venerdì soprattutto e giovedì scorsi, meno 2,30%, Luxottica meno 2,1%, Impregilo meno 1,7%. Di cosa parleremo in questa puntata? Beh, in primo luogo partiremo con un bilancio di questa molto breve. Siamo andati in diretta da Vinitaly per sia giovedì che venerdì. La chiusura di oggi, la fiera più importante in Europa per quello che riguarda il mondo del vino, ma sarà anche l'occasione per parlare con gli industriali del vino, se non si offendono, dell'appello lanciato dalla Presidente Confindustria in un video messaggio ieri, dicendo ci sentiamo soli, siamo stati lasciati soli come imprenditori. Questo sarà anche il tema della seconda ora del programma, per capire da cosa derivi anche questo senso di solitudine, che cosa stiano facendo gli altri governi in Europa, e mi riferisco soprattutto ai governi di centrodestra, visto che ormai sono la maggioranza. La Spagna, Zapatero ha annunciato che lascerà, ma insomma Germania, Francia, Gran Bretagna, che sono i paesi che noi guardiamo con maggiore insistenza come riferimento, hanno tutti i governi di centrodestra, per capire che cosa si è fatto lì, fermo restando, lo dico subito, che l'Italia ha un problema in più che si chiama debito e anche deficit, e quindi i margini di manovra e quindi i soldi spendibili dal ministro Tremonti sono molto molto pochi. E questo va tenuto sempre in considerazione. Questo non è la seconda ora del programma. Nella prima parte, dicevo, oltre ai temi di cronaca vera e propria, ci occuperemo anche delle materie prime. Sono di nuovo a record tutte, l'oro è a record, il petrolio resta sopra $112 al barile, per cui cercheremo di capire il perché oro, argento e in generale le materie prime stiano tornando a livelli mai visti prima, e soprattutto quanto potrà durare. Una notizia che farà arrabbiare anche i nostri ascoltatori, vi spiego perché. Perché il governo si sta trasformando nell'ottava compagnia petrolifera, lo dicono i consumatori di Adusbef e Federconsumatori. Praticamente grazie all'aumento del prezzo del petrolio, e per cui l'IVA, che è proporzionale, dà un incasso e un gettito più alto, all'aumento delle accise per pagare i fondi unici sullo spettacolo, in realtà poi c'è chi dice per altri motivi. Comunque il governo a fine anno dovrebbe avere un extra gettito, quindi un surplus di entrate fiscali di 2 miliardi e 100 milioni di euro come aumento del prezzo del petrolio e non calo dell'IVA. Tra l'altro questo vuol dire 410 euro a famiglia. Quanto aggravio del costo della benzina. 349-238-6666 per i vostri sms. Andiamo rapidamente alle notizie in breve. Sì, vedo che già qualcuno scrive: bisogna dimezzare i dipendenti pubblici. Me lo diciamo, non so, dimezzare non so se sia la cifra corretta. Sicuramente il pubblico impiego ha avuto in molti casi bloccato il turnover, quindi più che dimezzare in generale i dipendenti pubblici bisognerebbe andare a vedere là dove sono in funzioni sovrapposte. Però ce ne sono pochi, per esempio nella sanità, molti in altre funzioni. Però attenzione, la cosa che vorremmo capire è se poi, quando passerà il federalismo fiscale, si arriverà anche, vista la redistribuzione dei ruoli, a una riduzione dei dipendenti a Roma o diciamo a Milano, a Venezia, a favore di quelli che verranno, che svolgeranno le stesse funzioni in regione oppure nel comune. Questo è il vero nodo, altrimenti andiamo a aumentare il numero di dipendenti della pubblica amministrazione e non a ridurli. Dicevo, oro record 1478 dollari l'oncia, quotazione al massimo anche per l'argento, 41,5 dollari anche per l'argento. Della benzina abbiamo detto, restiamo sull'economia internazionale, perché la bilancia commerciale cinese ha registrato nei primi tre mesi dell'anno un calo che non si vedeva dal 2004, un calo e quindi un saldo negativo nella bilancia commerciale. Perché? Perché ha avuto esportazioni pari a 399 miliardi nei primi tre mesi, ma importazioni pari a 400 miliardi. Interessante questo dato, eh? E c'è anche la componente energia, però attenzione, perché qualcosa si sta cambiando in Cina. L'inflazione è sempre molto forte, c'è la crescita dei prezzi delle materie prime, per carità, ma pensate che l'anno scorso nello stesso periodo la Cina aveva un surplus, cioè aveva un attivo nella bilancia commerciale pari a 14 miliardi di euro. Tirano comunque le economie emergenti, la ripresa mondiale, lo dice oggi il Fondo Monetario Internazionale. La Cina fa la parte del leone con un PIL in crescita nel 2011 del 9,6%, il 9,5% nel 2012, bene la ripresa mondiale, complessivamente più 4,4% nel 2011, quindi i timori di chi temeva il double dip, la doppia recessione, dovrebbero essere quasi del tutto fugati. Per quello che riguarda l'America crescerà quest'anno di un 3%, l'area euro dell'1,6%, l'Italia l'1,1%, e il Fondo Monetario Internazionale la chiama una ripresa debole, quella italiana. Ancora per quello che riguarda l'Italia, però arriva un plauso al deficit italiano. Dice infatti il Fondo Monetario Internazionale: l'Italia è più vicina di altri paesi europei a raggiungere l'obiettivo di un deficit sotto il 3% nel 2013. Un altro plauso arriva sui disoccupati, perché al mondo ci sono 205 milioni di disoccupati, 30 milioni in più rispetto al 2007, però l'Italia è sotto la media europea con una disoccupazione all'8,6% nel 2011. Quella europea è al 10% nel 2011. Sì, so che molti di voi aggiungono: sì, ma noi la cassa integrazione non la consideriamo nella disoccupazione. Vecchia polemica. Nel senso che non si risolve. Secondo la Banca d'Italia è da considerarsi, la Banca d'Italia considera anche la cassa integrazione come non piena occupazione, e ha ragione. Però è anche vero che la cassa integrazione non può essere considerata la stregua di chi non ha lavoro, perché è di fatto un sussidio, è anche quantificabile a chi ha perso il lavoro anche temporaneamente. La produzione industriale italiana a febbraio risale più 1,4% rispetto a gennaio e più 2,3% per quello che riguarda l'anno prima, quindi febbraio del 2010. Allora, ultima notizia, poi passiamo al primo tema. La Fiat, come già i nostri GR vi hanno ricordato, Sergio Marchionne oggi ha dichiarato: a giorni saliremo in Chrysler con un'ulteriore quota del 5%. Per quello che riguarda il raggiungimento della quota del 51% di Chrysler, ha detto Marchionne, non so se lo faremo quest'anno. E per quello che riguarda invece il commento di Emma Arcegaglia di ieri nel videomessaggio, ha detto: anche noi ci siamo sentiti soli nella battaglia per Pomigliano e Mirafiori. Poi ha precisato due ore dopo: il governo comunque ha fatto quello che poteva, il ministro Sacconi ha fatto il massimo in quelle condizioni. 349-238-6666 per i vostri sms. Primo tema, l'industria del vino. Chiudiamo, diciamo, in bellezza. Oggi è l'ultima giornata del Vinitaly, però parlando anche dei temi di attualità. Sì, del rapporto Caritas vedo alcuni messaggi, parleremo tra un attimo. Vorrei chiudere con il Vinitaly che sta in questi minuti chiudendo proprio i cancelli, 156.000 visitatori, 48.000 stranieri, più 3% in un anno in cui c'era anche, ci sarà anche Bordeaux e quindi la concorrenza francese. La top 10 delle provenienze vede la Germania in testa, poi gli Stati Uniti, il Canada, il Regno Unito, la Svizzera, la Francia, l'Austria, i paesi dell'est Europa. Forte la presenza russa, ma anche cinese e di Hong Kong. E abbiamo sentito decine di produttori in questi giorni in diretta dal Vinitaly. Vorrei allora concludere con l'ultimo produttore che sentiremo per questa edizione del Vinitaly. Mi riferisco a Gianni Zonin, che oltre a essere presidente della Banca Popolare di Vicenza è anche presidente dell'omonima casa vinicola. Buonasera presidente. Buonasera dottore. Beh, intanto diamo un commento su questo Vinitaly, visto che siamo in conclusione, poi le chiederò anche un commento, però visto che lei fa anche l'industriale, diciamo, perché insomma il vino a quei livelli e industria, voi fate qualcosa come 24 milioni di bottiglie l'anno, giusto più o meno? 24. È corretto, sì. Di cui esportate il 60%, insomma il vino è a cavallo tra l'agricoltura ma anche l'industria quando si va a esportare. Siamo in 103 paesi del mondo, ecco. Quindi è una grande soddisfazione che in 103 paesi del mondo si beve il vino italiano, si beve il vino della mia famiglia. Perfetto, adesso arriviamo a questo perché c'era l'appello di ieri, la considerazione di ieri di Emma Marcegaglia sugli industriali che si sono sentiti soli, ma mi dica intanto come ha chiuso questo Vinitaly, così partiamo dalle cose più positive, immagino. Ho visto un'ottima affluenza, molto interesse, buona la presenza dei buyer stranieri, quindi sotto il nostro punto di vista è stato un Vinitaly assolutamente positivo. Bene fino al sabato, la domenica poi come sempre è una fiera e aperta anche agli appassionati e agli amanti del vino, e quindi oggi si accusa bene anche oggi, mi hanno riferito di ottime presenze del settore della ristorazione, quindi assolutamente un Vinitaly positivo. Positivo, ed è devo dire il comune elementore della maggior parte dei produttori che abbiamo sentito. Lei ricordava come in realtà sabato domenica sia una data più per i cittadini normali, il lunedì, visto che spesso i ristoranti, lo spiego a tutti, sono chiusi il lunedì, è la data in cui possono andare anche i ristoratori. Si è creata una piccola polemica, si vedono alcuni messaggi sul ministro Brambilla che beveva la Coca-Cola, lo abbiamo raccontato, forse era il caso di bere vino. Potevate dare del vino alla Brambilla, presidente, no? Ma forse non ha, li faremo assaggiare i vini Zonin, chissà che ti innamori del vino anziché della Coca-Cola. Qualunque vino è meglio della Coca-Cola se sei Vinitaly, se posso. È la più sana, la più igienica delle bevande, è la bevanda della storia e della tradizione d'Italia. L'Italia è il paese per eccellenza del vino, valorizziamo le nostre produzioni di eccellenza. Sì, ma io dico, poi uno può bere benissimo la Coca-Cola, la Fanta, quel cavolo che vuole, il Chinotto. Quando sei lì come ministro dell'agricoltura alla presentazione del Vinitaly, sei ministro del turismo, devi spiegare quanto è importante l'accordo agricoltura-turismo, forse la tia di Coca-Cola io l'avrei levata, così. Però andiamo avanti, invece c'è un altro tema che mi interessa, parlando con i vari operatori, c'è questa ipotesi l'anno prossimo, visto che spiegavo come funziona il Vinitaly, di ridurre i giorni e farlo partire da domenica, se ho ben capito, in modo da evitare l'affluenza anche di visitatori, per carità, graditi ma non operatori professionisti. Sì, io credo che fa bene la fiera di esaminare tutte le opportunità per valorizzare sempre di più il Vinitaly e per cercare sia per i visitatori che per gli espositori di offrire le date migliori. Io però guardo sempre a chi viene in fiera, del fornitore è lì per sacrificarsi e per fare una essere un punto di riferimento, un punto di incontro. Quindi guardiamo i visitatori, guardiamo i buyers, guardiamo le persone che vengono dall'estero, da lontano. Allora ben venga uno studio, una verifica. La mia impressione è che così come andiamo, un giorno in meno non diminuisce senz'altro il numero delle presenze. Così com'è, c'è sempre stata un'escalation, sempre stato un aumento, non ho mai sentito lamentele particolari, la fiera sta andando bene, funzionando bene, io avrei qualche perplessità nel cambiamento, ma sono sicuro che la direzione e la presidenza della fiera faranno le scelte migliori nell'interesse del vino italiano, nell'interesse degli esportatori, ma soprattutto nell'interesse di chi dei nostri clienti. Mi dica un'ultima cosa, per quello che riguarda invece lei come imprenditore, perché lei fa il presidente di una banca popolare importante come la Popolare di Vicenza, però appunto con queste 24 milioni di bottiglie e quasi 110 milioni di fatturato nel 2010 è un imprenditore a tutto tondo. Lei si è sentito solo? Cioè l'appello della Marcegaglia di ieri lo condivide? Si sente un po' solo? Mi riferisco in questo caso al mondo degli imprenditori del vino, quando andate all'estero. Guardi, io non farei un riferimento all'Italia, che è un paese straordinario, perché per fortuna ci sono gli italiani. Quello che mi ha sempre angustiato è la burocrazia. Una burocrazia che si è accentuata e si è esasperata con un tentativo di costruire la comunità europea, dove da Bruxelles, oltre alla burocrazia italiana, abbiamo anche questa burocrazia, chiamiamola europea. Ecco, questo è quello che ci limita, quello che ci fa perdere un sacco di tempo, quello tutti gli uffici che hanno diritto di veto, nessun ufficio che sappia sbrogliare una matassa e che si prenda una responsabilità. Allora, diciamo alla nostra Presidente, diamoci da fare per veramente snellire e per togliere questa burocrazia che ci soffoca. Questa è la cosa di cui più ha sete e fame l'Italia, gli italiani che producono, dagli operai agli imprenditori, alle persone di buona volontà. Ma rispetto a altri paesi, ai suoi concorrenti francesi, lei si è sentito più solo rispetto alla politica? Cioè i ministri, nel caso vostro il ministro dell'agricoltura, soprattutto le missioni di sistema francese in cui si muovono 200-300 imprenditori, non a caso stanno conquistando intere quote in Cina, Zonini, i francesi. Il problema è che noi abbiamo delegato alle regioni tutte le responsabilità dell'agricoltura, quindi abbiamo un ministero dimezzato e abbiamo 27 ministri dell'agricoltura, 21, che sono i 21 assessori regionali. Questo non può che provocare confusione, quindi bisogna che sistemiamo un pochettino questa organizzazione dell'azienda Italia e forse ci vorrebbero più imprenditori nel governo, perché l'imprenditore è nato per organizzare e la sua funzione è rischiare e organizzare. Queste sono le funzioni dell'imprenditore. Ha in mente un imprenditore in particolare nel governo? Ma guardi, sento parlare molto del nostro Luca di Montezemolo, che stimo, che è una bravissima persona, ma voglio dire è bravissima anche la nostra Marcegaglia, e ce ne sono tantissimi imprenditori straordinari. Bisogna avere il coraggio di prendere, come si dice, il toro per le corna e buttarsi nell'arena, cosa che reputo abbastanza difficile. Quindi lei dice, insomma, sia la Marcegaglia che Montezemolo andrebbero bene nel governo? Ma guardi, sono persone che hanno saputo rischiare in proprio, che sanno organizzare le aziende, hanno dimostrato di saper valorizzare le aziende in cui hanno operato, quindi voglio dire, se li mettiamo a lavorare nell'azienda Italia probabilmente faranno altrettanto bene. Quindi io proprio in questa situazione di disagio degli imprenditori, per questa burocrazia che ci soffoca, abbiamo bisogno di qualcuno che faccia correre l'Italia come sanno correre gli italiani. E lo dice sia come imprenditore che come presidente di banca? Ma io quando parlo sono sempre imprenditore, poi le funzioni magari si sommano. comunque gli imprenditori hanno bisogno di quello che vi ho detto, proprio di sburocratizzare l'Italia, lasciateci lavorare in pace, che noi siamo capaci di superare i francesi, i tedeschi, gli spagnoli, non abbiamo paura di nessuno, però lasciateci correre. Allora, in bocca al lupo anche a lei, come a tutti gli ospiti che abbiamo avuto. Tra l'altro lei ha ricevuto anche un premio a Vinitri della Camera di Commercio Americana in Italia per la tenuta che ha in America di Barbersville. In bocca al lupo anche a lei, in bocca al lupo a tutti le decine di imprenditori che abbiamo sentito in questi giorni e alle migliaia, erano 4.500 quasi presenti le aziende a Vinitri che non abbiamo avuto modo di sentire. L'appuntamento con voi sarà per la prossima edizione, la 46esima edizione di Vinitri. Grazie al Presidente della Casa Vinicola Zonin e della Banca Popolare di Vicenza, Gianni Zonin. Buonasera, buonasera. Vedo molti messaggi sulla Brambilla. No, non è successo niente. Il ministro Brambilla sabato era in visita alla Fiera di Verona assieme al ministro Romano, il mio ministro dell'agricoltura, abbiamo fatto anche ascoltare delle interviste a Romano. In conferenza stampa c'è stata un po' di polemica sui giornali perché mentre si annunciava un accordo interministeriale per la promozione del vino, lei stava bevendo la Coca-Cola. Ad alcuni è sembrata una cosa inopportuna durante il vinite di bere la Coca-Cola. Poi c'è chi scrive: ma come fate a dire che la Coca-Cola che il vino fa meglio della Coca-Cola? Dipende quanto ne bevi, adesso non so. Non metterei la mano sul fuoco nessuno e sull'altro, semplicemente non era in questo caso opportuno. Poi c'è chi mi scrive: la Brambilla va in vacanza in Provenza. Non lo so, non mi occupo obiettivamente delle vacanze della Brambilla. Se fosse così, anche in questo caso non avrei problemi a dire che se fai ministro del turismo vai in vacanza in Italia, mangia italiano, bevi italiano e via così. E qui ci fermiamo. Invece la borsa invariata, meno 0,03% Milano, meno 0,15% Francoforte, meno 0,46% Parigi, più 0,18% Londra, euro a quota 1,44,35. Ne parliamo dopo il meteo e la pubblicità. Parleremo anche del rapporto Caritas sul costo dei mutui in questo paese, le dichiarazioni di Marchionne sulla Fiat e poi tutta la pagina che riguarda le dichiarazioni di ieri di Emma Marcegaglia. ...17:36 di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso il rapporto della Caritas sui prezzi, l'andamento del mercato immobiliare e poi la borsa e poi Marchionne e poi la Marcegaglia. Una risposta, due risposte brevissime a chi scrive al 349-238-6666 sulla disoccupazione. Attenzione, il Fondo Monetario oggi ha solo detto che rispetto alla media europea, che è del 9,9%, l'Italia è messa meglio perché la disoccupazione è all'8,6%. Nessuno sta dicendo che questo sia un bel dato, né ci siamo dimenticati, lo dico a chi scrive, della disoccupazione giovanile che da noi è a livelli più alti in Europa, 29,5% l'ultimo dato. Prima risposta. Seconda risposta invece a chi dice: ma insomma, cosa doveva fare la Brambilla al Vinitaly? Se non le piace il vino doveva per forza bere un bicchiere. No, diciamo che in conferenza stampa, adesso non vorrei fare la puntata sulla Coca-Cola bevuta dalla Brambilla, ma questo è un programma che si occupa di temi un po' più seri. Detto questo, ve lo immaginate voi in Francia, il ministro del turismo che a Bordeaux, a Vinexpo, si presenta con la Coca-Cola di fronte ai produttori francesi? Non so se sarebbe riuscito a uscire dalla sala a quel punto. Comunque, il rapporto Caritas sui mutui. Mentre oggi si è saputo che l'Euribor, ossia il tasso interbancario a tre mesi, ha superato anche la soglia dell'1,3%, quindi è ai massimi ormai da poco prima del 2008, da metà 2009, e Oggi a Roma, dicevo, è stato presentato il rapporto mutui e spese per la casa, metà delle famiglie a rischio. I dati sono diffusi dall'Osservatorio regionale del costo sul credito promosso dalla Caritas. La Caritas dice in sostanza che una famiglia su quattro è in crisi per il mutuo e ancora i tassi di interesse non sono ripartiti. Faccio notare io. Ha difficoltà a pagare il mutuo, una su due spende oltre il 30% del proprio reddito per fare fronte alle spese di mantenimento della casa tra mutuo e bollette. Sappiamo che il consiglio è sempre di avere un mutuo, una spesa per la casa, tutto incluso, che non vada oltre il 30-35% dello stipendio. Allora, su questo il vice direttore della Caritas italiana Francesco Marsico, intervistato dalla nostra Alessandra Schepisi, dice: attenzione, le imprese si sentono sole, in riferimento all'appello di Emma Marcegaglia ieri, le famiglie italiane non sono più fortunate delle imprese. Una difficoltà complessiva del nostro paese a fare politiche delle case sostenibili e effettive e appunto un sostegno alle famiglie tali da poterle tutelare dai rischi del credito. Le difficoltà non sono solo per le famiglie con i mutui, anche con le famiglie in affitto. È evidente, l'assenza di politiche della casa complessive a livello locale mettono a rischio entrambe, quelle che tentano il passaggio per una casa di proprietà, sia quelle che avendo bassi redditi non trovano collocazioni, diciamo così, nel mercato adeguate ai loro redditi e quindi chiaramente espongono entrambe a rischi di povertà, le prime di default dei finanziari, le seconde appunto a trovare alloggi decenti, dignitosi per le loro condizioni di reddito. La responsabilità, le ha detto, non è solo della crisi ma anche della mancanza di politiche sociali, ha parlato di famiglie che sono state lasciate sole, così come sono state lasciate sole le imprese. Sono state abbandonate politiche degli scorsi anni sicuramente piene di problemi, però le politiche di progressiva privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico da una parte e non sostituzione di politiche più raffinate, anche di housing sociale, spesso più legate a interventi di fondazioni bancarie e di enti privati, più adeguate, diciamo così, a rispondere ai bisogni attuali, appunto fanno sì che ci sono poche risposte sperimentate, verificate e valutabili, e questo chiaramente pone la questione di una solitudine delle famiglie italiane. Così appunto il vice direttore della Caritas. Vedo, continuano ad arrivare messaggi sul tema della brambilla, della Coca-Cola, spostando leggermente l'obiettivo, dicendo: va bene, però ha mai visto un governante o un ministro all'estero andare in Germania a girare con un'auto italiana come noi facciamo con le auto tedesche? No, anche questo è vero, non sarebbe pensabile in Germania che un ministro si presentasse con un'auto italiana, anche di lusso, anche una Maserati, anche un'auto di gamma alta, lo sappiamo, infatti vale lo stesso ragionamento, l'abbiamo detto altre volte, secondo me non dovrebbe essere, se rappresenta le istituzioni dovrebbe essere sempre in giro con le auto italiane, anche le Fiat. E allora parliamo di Fiat, perché oggi Sergio Marchionne ha detto due cose. Ha detto innanzitutto che si comprerà un altro 5% della Chrysler a giorni, ma non sa se arriverà al 51% come anticipato entro quest'anno. Sentiamo questo passaggio. Il 25 c'è, il 5 ce lo dovrebbero dare a giorni, perché abbiamo raggiunto la seconda tappa delle tre tappe che bisogna raggiungere per arrivare al 35%. Il 16 bisogna acquistarlo. Il 16 si può acquistare soltanto o dall'anno prossimo o prima, se riusciamo a comprare, a ripagare il governo americano. Poi sulla vicenda Bertone, la ex Bertone, ha detto Marchionne di sperare pochi giorni per raggiungere l'accordo per l'investimento dell'ex Bertone, altrimenti rischia di saltare tutto. La Fiat è stata una chiarezza incredibile su questo, no? Abbiamo un contratto a Mirafiori e uno a Pomignano che è stato ormai votato dalla maggioranza ed accettato dai nostri dipendenti. Non posso creare due stati nella Fiat, no? Facciamo vetture a Bertone come le facciamo a Mirafiori, come le facciamo a Pomignano. Marchionne parlava tra l'altro oggi a Balocco, provincia di Vercelli, per la presentazione della Jeep. Ha commentato anche la frase di Marcegaglia: l'imprenditore che si sente solo, ma la faremo ascoltare più avanti. Adesso invece voglio fare la borsa. No, sto ridendo perché un ascoltatore scrive: beh, non ho mai visto un ministro portoghese girare con un'auto portoghese, e su questo siamo tutti d'accordo, va bene. E ci mancherebbe un po' di ironia ogni tanto. 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, borsa meno 0,1%, non è cosa, invariata, meno 0,17% Francoforte, invariata praticamente anch'essa, invariatissima Londra, più 0,01%, l'unica che cede è Parigi, meno 0,6%, l'America guadagna lo 0,4%, euro a quota 1,44,50, come sempre il collegamento con Radio Cori, il Sole 24 Ore, l'agenzia di stampa del gruppo. Andrea Fontana, buonasera. Buonasera Sebastiano. L'automatica, un bel balzo, più 6,5%, anzi per la precisione, più 6,75%. Sì, un bel balzo per l'automatica, il mercato ha iniziato a scommettere su un rialzo degli obiettivi per il 2011, siamo in vista, diciamo, delle trimestrali, non ancora, ma il mercato con l'andamento dei primi tre mesi è già molto positivo sul business di l'automatica, appunto i giochi, le scommesse, le lotterie, e pensa che già per la fine del mese di aprile o con la trimestrale di maggio i vertici dell'azienda possono alzare le indicazioni sull'andamento dell'anno. Ecco perché il mercato ci ha creduto molto oggi, in un momento piatto si è scommesso su l'automatica, ha fatto più 6,7% come dicevi. Bene, anche Monte dei Paschi più 1,45%, Popolare di Milano più 1% e Banco Popolare più 0,70%, anche se oggi mi sembra che tutti i ragionamenti che ci hanno accompagnato nelle ultime due settimane sulle ricapitalizzazioni siano un po' scemati, no? Nel Monte dei Paschi è in corso il CDA, da cui dovrebbe uscire un aumento di capitale, ma dico in borsa. Sì, certamente ricordiamo che tutti e tre i titoli che tu avevi ricordato erano stati fortemente penalizzati dal mercato nel momento in cui era caldissimo e urgente il momento di parlare di aumenti di capitale. Ora si sta passando le parole ai fatti, almeno per quanto riguarda il Monte dei Paschi, come tu ricordavi, in corso consiglio di amministrazione per un aumento che sarà senz'altro superiore in superiore ai 2 miliardi. Per quanto riguarda Popolare di Milano, va detto che c'è questa attesa di un CDA straordinario mercoledì in cui verranno recepite le indicazioni di Banca d'Italia, o meglio, verranno affrontate le indicazioni dell'ispezione di Banca d'Italia, per cui il mercato torna un po' a parlare di modifiche alla governance, che sappiamo essere uno dei punti, diciamo, dolenti degli istituti popolari e oggetto di molte polemiche, soprattutto per quanto riguarda la Popolare di Milano. Quindi c'è stato oggi questo buon recupero, ma devo dire che in generale l'intero settore bancario, in una giornata piuttosto fiacca, si è mossa bene anche sulla scia dell'andamento soprattutto di titoli inglesi. Royal Bank of Scotland e anche Barclays sono mossi bene a Londra. Allora, 349-238-6666 per gli sms. Dopo il traffico parleremo di altri titoli, a partire da Parmalat, dove è arrivata la notizia che il giudice ha respinto la richiesta di Lactalis di sospendere la delibera del CDA, ossia il consiglio di amministrazione di Parmalat, utilizzando il decreto cosiddetto Salva Parmalat, ha spostato di 60 giorni a giugno il consiglio di amministrazione. E Lactalis aveva chiesto di invece sospendere questa decisione perché temono che questo serva per creare la cordata. Il Tribunale di Parma ha rifiutato questa richiesta di Lactalis. Le reazioni sul titolo dopo il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni per commentare la borsa e poi fare un piccolo approfondimento sul mondo delle materie prime, delle commodity, ma non solo. Ci chiedete perché non ci occupiamo del Salone del Mobile. Ragazzi, abbiamo appena fatto il Vinitaly, non possiamo fare due fiere in un giorno. Domani, visto che questa sera verrà presentato ufficialmente e aprirà i battenti domani mattina al Salone del Mobile, domani ci occuperemo del Salone del Mobile e di tutta l'industria che ruota attorno al cosiddetto legno arredo, altra chiave e punto di forza del Made in Italy nel mondo. Dicevo, Andrea Fontana, Parmalat dopo il no del Tribunale di Parma al ricorso di Lactalis. Beh, Parmalat è stata penalizzata del mercato, meno 1,3%, è chiaro che chi aveva scommesso sulla possibilità che si riaccendesse di colpo la partita in vista di un'assemblea che poteva essere riconfermata al 14 aprile, come era la prima scadenza prevista, si è dovuto ricredere, tutto viene rimandato al 25 giugno, in prima convocazione, nei giorni successivi per le assemblee di Parma, per cui per un attimo si è spenta l'attenzione immediata sul titolo, almeno per oggi. È chiaro che adesso si passa alle trattative, ci sono quasi più di 2 mesi per le trattative, si parla di un Lactalis che possa addirittura trovare un accordo con la cordata italiana e quindi trovare un accordo sulla governance e dividersi le quote attualmente in mano a Lactalis, oppure si andrà allo scontro e in quel caso vedremo se il mercato risponderà, come sicuramente farà. Vabbè, se c'è uno scontro, il mercato premia il titolo in quel caso. In una battuta, Gewais, dopo l'annuncio dell'offerta pubblica da parte del suo azionista di maggioranza Unifind. Sì. Ha guadagnato il 7,6%, si è molto avvicinata al prezzo di l'OPA, perché è stata lanciata l'OPA a 5,1 euro, e ha chiuso invece a 5,6. È un'OPA volontaria totalitaria con cui l'azionista di controllo intende ritirare l'azienda di impiantistica dal mercato quotato. Grazie Andrea Fontana, noi restiamo in tema di mercato, nuovo record dell'oro oggi, dell'argento, le materie prime che ripartono tutte, anche il petrolio stabilmente a New York, sopra i $112 al barile. $1478,18 l'oncia, questo vale l'oro. Sapete quanto l'oncia ogni volta? Me lo chiedete? 31,1 grammi è l'oncia Troy, non è l'oncia normale. Insomma, $1478. Praticamente siamo a un 30% in più rispetto a un anno fa. L'argento è a $41,52 l'oncia, anche qui siamo a livello più alto dal 1980. Lo stagno a record vale $33 a tonnellata. Alluminio e rame ai massimi dal 2008. E poi alcuni alimentari, pensate che il mais venerdì ha toccato un nuovo record storico. Il mais si misura in bushel, che era il vecchio sacco. Ogni bushel sono 25,5 kg e ha raggiunto i $7,70 per bushel. Dottor Roberto Binetti, numero uno di Cofinvest, già nostro ospite altre volte quando parliamo di oro e di metalli preziosi, ed è responsabile proprio delle quotazioni del settore pubblicate da tutti i quotidiani a mezzo Radio Corriere sulle 24 ore. Buonasera. Buonasera. Mi dice a quanto arriviamo con l'oro? Lei si ricorda che noi all'inizio dell'anno, quando il metallo era $1400 l'oncia, abbiamo ipotizzato un appuntamento invernale a fine anno $1500. Invece è un appuntamento primaverile, siamo già arrivati ai 1475. Ma vede, se mi permette, io condivido molto un articolo che voi avete pubblicato sabato dalla sua collega Sissi Bellomo, che è responsabile delle materie prime, un articolo molto centrato. Quelle motivazioni giuste di questi rialzi, pertanto molta liquidità a disposizione di grandi investitori, strumenti finanziari a disposizione molto rischio che danno più mal di testa che tranquillità, e poi sempre i soliti interessi della Cina che vuole arrivare entro breve tempo a 10.000 tonnellate di oro fisico e gli acquisti notevoli dalla parte dell'India per le proprie aziende orafe. Mi scusi, ma in una prospettiva in cui la Banca Centrale Europea ha aumentato seppur di poco i tassi di interesse, prima o poi anche l'America dovrà farlo e anche la BCE dovrà tornare a farlo, perché tutta questa liquidità e tassi così, diciamo, patologicamente bassi non si sono mai visti, non è una scommessa azzardata in questo momento l'investimento sull'oro? Lo parlo anche dei mercati, non solo del privato. Ma sicuramente l'oro è un po' un investimento morale, sicuramente noi cerchiamo di portarlo su un binario della razionalità, ma di fatto segue molto le preoccupazioni, i rischi, le tensioni finanziarie mondiali. Investimento morale, ha detto? Umorale. No, ecco, morale. No, perché l'investimento morale... morale non c'è più nulla di morale ormai in finanza. No, vabbè, l'investimento morale è quello che non pensa solo a se stesso, diciamo. Che... No, umorale, nel senso che quando ci sono delle notizie preoccupanti, gli investitori cercano di andare su un bene rifugio d'eccellenza, che è l'oro, anche se noi non lo consideriamo più solo uno strumento, cioè un bene rifugio, ma proprio uno strumento di investimento. Noi ipotizziamo 1.600-1.700 entro un anno e mezzo, cioè da 33 euro al grammo lo vediamo benissimo entro breve tempo a 40-45, anche con delle punte da 50, per le motivazioni che aveva appunto precisato anche la Sissi Bellomo, sono questi i punti fondamentali di questi rialzi. Noi consigliamo ancora un investimento in oro fisico, cioè non veramente non perché vogliamo portare plusvalenza alla Confimes, ma perché ci crediamo, insomma, non ci sono altre possibilità. Ma perché dice 33 dollari al grammo? Perché oggi costa un grammo d'oro costa 33 euro. Ah, euro, no, no, ecco perché erano 47 dollari per noi. No, adesso li metto in euro, benissimo, non capivo più niente. Perfetto, 33 dollari al grammo, questo è il valore record dell'oro in questo momento. Io oggi ho letto su un giornale finanziario una notizia che secondo me è un po' esagerata, addirittura 5.000 dollari l'oncia entro il 2020. Io non sono propenso a ritenere probabile una tale quotazione, perché se ciò avvenisse andrebbe la ridicola ad acquistare un quotidiano non più con le monete ma con delle banconote, insomma solo con gli lasciamo giù il dente. Esatto, solo con una folle inverosibile inflazione potremmo arrivare a questi valori. Sicuramente i 5.000 sono azzardati e fantasiosi, però i 1.600 dollari all'oncia ci stanno ancora. Vabbè, staremo a vedere, l'ultima volta ci avete azzeccato, quindi ve lo riconosciamo. Grazie all'amministratore delegato di Cofinvest Roberto Binetti. Scrive un imprenditore: l'imprenditore puro, forte, solo di buone idee, di qualche soldo da rischiare come me, si sente solo e come. Va bene, di questo parliamo dopo il GR. 349-238-6666 per i vostri SMS, gli imprenditori soli, come denuncia il presidente Marcegaglia, e cosa capita negli altri paesi dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Rispondo subito un SMS: no, non abbiamo notizie dell'aumento di capitale del Monte dei Paschi, se non che c'è il consiglio di amministrazione che deve decidere l'ipotesi di un aumento di capitale superiore ai 2 miliardi, perché superiore ai 2 miliardi? Perché 2 miliardi sono necessari per rimborsare i Tremonti Bond sottoscritti alla fine del 2009. Per 1 miliardo e 9 la banca ha già pagato un tasso fisso dell'8,5%. Bisognerà capire l'ammontare dell'aumento complessivo, perché appunto potrebbe essere, secondo varie indiscrezioni, a partire da quella diffusa in rete dall'agenzia di stampa Radio Corp, potrebbe essere assolutamente più ampia. Detto ciò, restiamo sul tema più forte in questo momento. Dopo la dichiarazione di ieri di Emma Marcegaglia, gli imprenditori si sentono soli. Allora, ascoltiamo intanto che cosa ha detto ieri Emma Marcegaglia e poi andiamo a commentare alcune dichiarazioni, quelle di Marchionne di oggi, del ministro Brunetta, del ministro Sacconi e la risposta di pochi minuti fa della stessa presidente di Confindustria. Mai come in questi momenti gli imprenditori si sentono soli. In un paese che stenta sempre più a crescere, mentre l'Europa si divide sempre più sul rigore tra pochi paesi forti e molti a rischio. Quando la lotta per la competitività sui mercati mondiali diventa sempre più aspra, con prezzi delle materie prime sempre più instabili. E di fronte a nuove ondate di sconvolgimenti internazionali che mutano dalle fondamenta paesi a noi vicini, come quelli del Nord Africa e del Medio Oriente. Gli imprenditori si sentono soli di fronte a tante difficoltà. Proprio per questo, perché il momento è straordinario, abbiamo deciso che occorreva una iniziativa eccezionale. Perciò abbiamo deciso di convocare per il prossimo 7 maggio presso la Fiera di Bergamo l'Assise 2011 di Confindustria e di Piccola Industria. La SISE chiama ogni singolo imprenditore e ogni associazione della nostra confederazione a dire la sua, a esprimersi direttamente su quelle che considera le vere priorità da porre al centro dell'agenda nazionale e della nostra stessa Confindustria. È davvero una grande occasione per decidere tutti insieme l'Italia che vogliamo. Allora uniamo le nostre voci e uniamo le nostre intelligenze, uniamo le nostre esperienze e le nostre passioni, perché questo non è più il momento di scaricare sugli altri le colpe. L'Italia di oggi è già un paese troppo diviso. Allora dall'impresa può e deve venire un esempio per tutti, un esempio di come liberamente si possa convergere su poche scelte chiare e di priorità condivise, per ridare all'impresa la capacità di crescere, la capacità di creare lavoro, coesione sociale e proiezione nel mondo. Così appunto la Presidente Confindustria ieri in questo video messaggio, che era una chiamata raccolta per il prossimo inizio maggio a Bergamo. Oggi su questo ha fatto una battuta anche Sergio Marchionne, ascoltiamola perché è interessante, anche un po' da leggere, da interpretare. La Fiat, è quello che stiamo cercando di fare, riflette la mancanza di coesione, no? Questa battaglia che abbiamo fatto per Pomigliano e Mirafiori. Siamo soli in questo, no? Siamo gli unici che siamo, per il momento, che siamo stati disposti ad affrontare il problema. Noi abbiamo un problema tutto unico, no? Noi siamo la più grande industria metalmeccanica, quindi il nostro è un problema piuttosto grosso. E poi le prevedibili, devo dire, reazioni del governo. Dice il ministro del lavoro Maurizio Sacconi: se Emma Marcegaglia si voleva riferire al governo è stata ingenerosa. Ancora il ministro dello sviluppo economico da Herat, Paolo Romani: non voglio commentare le parole di Emma Marcegaglia e del numero uno della Fiat Marchionne, il nostro impegno è nei fatti. E chiude le dichiarazioni il ministro Brunetta, che ha detto poco fa: il governo Berlusconi non ha avuto e non ha alcuna intenzione di lasciare sole le imprese italiane, e il prossimo mese di maggio arriverà una frustata per l'economia. Al che hanno chiesto poco fa alla presidente di Confindustria Marcegaglia, che era all'assemblea dell'industria di Lecco, se temesse la frustata, o se fosse invece contenta della frustata annunciata dal ministro Brunetta all'economia per il mese di maggio, e ha detto Marcegaglia: sono curiosa e attendo. Professor Giacomo Baciago, buonasera. Buonasera a tutti. Editorialista del Sole 24 Ore, docente di politica economica all'Università Cattolica di Milano. Era un po' che non la sentivamo, ma mi sembra che questo sia il tema pane per i suoi denti. Allora, mi faccia prima capire una cosa, poi andiamo sul ragionamento vero e proprio. Gli imprenditori, perché alcuni scrivono: ma se sono solo gli imprenditori, figuriamoci quanto soli sono i disoccupati. Insomma, gli imprenditori secondo lei sono soli o no? Poi arriviamo al resto dei ragionamenti. Diciamo che è meglio soli che male accompagnati. Il problema vero è che abbiamo un'Europa dove i governi di centrodestra, Francia, Germania, Inghilterra, Svezia, la gran parte dei nostri governi europei di centrodestra favoriscono l'industria. L'Italia è, come al solito, il caso anomalo. Cosa vuol dire favorire l'industria? Beh, ricordatevi cosa fa la Merkel nei momenti di crisi: alza di 3 punti l'IVA e rifinanzia i Max Planck Institutes, 80 sono in Germania, che fanno ricerca e trasferiscono gratis i risultati delle loro ricerche alle industrie tedesche. Beh, ci vuole del coraggio, però, viva Dio, perché non possiamo avere il centrodestra tedesco, o quello francese, o quello inglese, o quello svedese, dove il ministro della pubblica istruzione, dopo 30 anni di dominio della sinistra, dà soldi alle grandi scuole private perché, competendo con quelle pubbliche, gli danno una mossa. perché non possiamo avere un centrodestra svedese e perdiamo tempo con un centrodestra italiano che non ha capito nemmeno i problemi del paese. Noi abbiamo ridotto l'ICI. Attenzione, venerdì l'OCSE ha pubblicato un bel rapporto, Going for Growth. La prima cosa che dice dell'Italia è che dovrebbe spostare la tassazione dal lavoro e dal capitale produttivo ai patrimoni e ai consumi. Beh, questa è non credo che sia una ricetta di sinistra, però certo è la ricetta di un paese che vuole restare un paese industriale. Allora, adesso io ho il traffico. Ho capito cosa dice, noi tassiamo troppo il lavoro, ed è vero, aliquote fortissime, oltre il 43% sui redditi da lavoro, molto meno tassati sono i guadagni da investimenti, l'aliquota più bassa che c'è tra i paesi europei, e il 20%, e ancora meno diciamo, riusciamo a scovare i patrimoni, senza però arrivare necessariamente a una patrimoniale, Vaciago. Però insomma, io vorrei capire, dopo il traffico, come si fa a fare qualcosa per le imprese, con un problema che si chiama controllo dei conti pubblici, quindi il deficit italiano, oggi è arrivato anche un apprezzamento dal Fondo Monetario Italiano, dal Fondo Monetario Internazionale sul deficit italiano, e con il debito che ci ritroviamo, visto che il Portogallo ha appena chiesto aiuto e ce lo siamo praticamente comprato, l'Irlanda ce la siamo già comprata, la Grecia lasciamo stare, c'è chi ipotizza adesso che la Spagna possa essere il prossimo obiettivo. Insomma, è difficile fare politica industriale se non c'è i soldi. La risposta dopo il traffico, 349-238-6666 per i vostri sms. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Vaciago, ho capito, le dice, copiamo l'esempio tedesco, guardiamo quello che ha fatto la Francia, guardiamo quello che ha fatto la Gran Bretagna, che ha ridotto le tasse e ha però diminuito anche il pubblico impiego, guardiamo quello che ha fatto la Svezia. Sono quattro paesi, sopra tutti i primi tre, a noi molto vicini, e come dimensioni, come anche concorrenza, e che hanno governi di centrodestra. C'è un piccolo particolare, nessun ministro ha il problema che ha Tremonti, tenere sotto controllo il deficit con un debito che è salito e con un attacco speculativo ai debiti sovrani europei. Sì, però io ho citato non a caso il rapporto OCSE del venerdì scorso, perché lì le riforme che vengono proposte per il nostro paese, nessuna di esse ha un costo di finanza pubblica. Attenzione, fare finalmente ciò che Bersani aveva iniziato a fare. Beh, ma dico, per un governo di centrodestra imitare quel poco di riformismo liberale che fece un governo con Rifondazione Comunista dentro, suona carina. Se guardi il rapporto Going for Growth, appena pubblicato dall'OCSE, ciò che ci propone serve a ridurre il deficit e a favorire la crescita. Io immagino che la gente che aiuta la Marcegaglia a fare strategie economiche non siano pericolosi sovversivi di Rifondazione Comunista e tantomeno spendaccioni. Cioè, il vincolo della finanza pubblica ormai l'abbiamo internalizzato e destra e sinistra sanno che i soldi vanno ridotti, non aumentati all'industria. Ma proprio per questo è più importante guardare a come spendi ogni euro e se questo euro è utile alla crescita o no. Attenzione che io ho davanti agli occhi il grafico della produzione industriale di questo paese. È crollato del 30%, è risalito dell'8%. Siamo sotto ancora del 20% al massimo del 2008 e a questi ritmi neanche in 10 anni torna dove eravamo già. Il che vuol dire che o ci rimbocchiamo le maniche e decidiamo che la crescita è l'obiettivo e andiamo anche a vedere cos'è che produce la crescita però, perché non è la Costituzione, sono le buone riforme, la pressione competitiva, aprirci alla concorrenza, favorire l'arrivo qui degli investimenti, cosa che negli ultimi anni non ho mai visto. Sì, lei in questo riecheggia un po' quanto va dicendo il nostro Oscar Giannino da qualche giorno, da qualche anno perché è un uomo coerente, ma da qualche giorno, riferito al fatto che insomma sta mancando una spinta riformista di destra, e quindi per il libero mercato, contro lo statalismo, contro la partecipazione pubblica, o meglio la concorrenza sleale del pubblico, sta mancando questa spinta, diciamo, riformista di destra. Quindi la sua ricetta è, per far capire a tutti, è vero, non ci sono soldi, ma si possono fare riforme che rendono più competitive le nostre imprese, perché se così me ne dica due almeno. Allora, guardiamo di nuovo, torniamo all'industria. La nostra industria in questo momento è così piccola che fatica a crescere, perché la competizione oramai è globale. Chi aiuta un bravo imprenditore con 300 dipendenti a crescere in Russia, in Cina, in India? Nessuno. Cioè, noi abbiamo bisogno di portaerei, abbiamo bisogno di istituzioni e di politiche, avremo bisogno anzitutto di un governo che favorisce la crescita altrove, sì, ma come? Delle nostre aziende. Con un aiuto fiscale? Con la locomotiva. A che scopo le grandi imprese si portano dietro una nube di piccole aziende? Quando io vedo le nostre poche grandi aziende andare da sole in giro per il mondo, senza un sottosegretario e senza la filiera, cioè le 100-200 piccole e medie aziende che sono il distretto, il settore, la filiera di quell'azienda. Io conosco infinite piccole e medie aziende che lavorano su commessa per Enel, per Terna, per le grandi aziende italiane. È con loro che devono andare in giro per il mondo, è quello che fanno i grandi paesi industriali. Sì, però questa critica, Germania e Francia. Allora, sul fatto che noi difficilmente nelle missioni all'estero riusciamo a fare sistema, ne parlavamo in apertura riferito al mondo del vino, la Francia va in Cina con 300-400 imprese, con il Ministero dell'Agricoltura, con tutte le istituzioni, si presenta come un blocco monolitico, noi invece andiamo da soli. Questo, diciamo, è la responsabilità. Adesso ci potrà andare la Cassa Depositi e Prestiti con latte e il vino, spero. Non solo il latte, spero anche il vino. Vabbè, adesso vediamo se c'è bisogno della CDP anche sul vino. Però quella è una critica che può essere fatta al governo, da dire: fate più missioni di sistema, portate il ministro, i ministri assieme alle imprese, perché poi nei paesi grandi come India, Cina e Brasile questo conta. Però è anche vero che poi devono essere le stesse imprese a fare il sistema tra di loro, e anche con le banche, perché qui stiamo dimenticando che chi dovrebbe aiutare le imprese a aumentare le dimensioni e andare sui mercati esteri è anche il mondo bancario, professore. Guarda che quando la Marcegaglia dice ci siamo sentiti soli, in prima istanza ha in mente il governo, ma non credo che ce l'abbia solo col governo. Soli proprio nel senso che ciascuno per sé e ciascuno per tutti, ma non si fa squadra. Questo è un problema serio, e tu ti saresti aspettato che dopo una crisi gravissima non basta. Insomma, noi abbiamo avuto una crisi gravissima, la linea del governo è stata: non è colpa nostra, ed è vero, però ce l'abbiamo, e altri stanno peggio di noi. E anche questo è vero, ma non mi consola sapere che altri stanno peggio di noi. Non invidio la Grecia, l'Irlanda e il Portogallo, mi preoccupa l'Italia però. Anche perché i nostri migliori crescono fuori di qui. E quindi o attiriamo altrui virtù e aiutiamo i nostri a crescere senza andarsene, attenzione, perché poi ho sempre paura che prima o poi qualcuno dei nostri bravi se ne va e non mi resta. Mentre un conto è crescere in India, in Brasile, in Cina, eccetera, ma tenere qui cervello, marchi e know-how, un conto è salutare e andarsene. E sempre lì anche il timore che abbiamo. Ecco, vorrei proporre però, io come per ruolo faccio sempre l'avvocato del diavolo in questo caso con lei, professore, vorrei proporre però un'ultima analisi. E se fosse che i nostri industriali, quelli di eccellenza, avendo ormai capito che tutta la crescita che possono avere ce l'hanno dall'estero, e vediamo infatti imprese che esportano tra il 50-60% del fatturato, tutta la ripresa che c'è stata nella produzione industriale è solo estero, come deriva, non certo italiana, si sono concentrati più sulla parte estera, e quindi hanno dimenticato anche di fare pressioni su base nazionale. Cioè, quando tu hai due terzi del fatturato che non vengono dall'Italia, tra virgolette sei un po' meno italiano. Sì, però il problema rimane sempre che comprensione c'è intorno a te. Quando io vado a Reggio Emilia, è una grande azienda di Reggio, piccola in generale, ma grande lì, mi dice che ci ha messo 10 anni a avere il permesso dal comune per poter fare la fabbrica nuova, io mi domando se vogliamo restare un grande paese industriale o la cosa comincia a farci schifo. Perché tutti, anche i comuni di sinistra, devono rimboccarsi le maniche e favorire gli investimenti delle loro imprese. Se no, addio, se no, arrivederci e a sperare di avere ancora... Sì, devo dire che su questo era demoralizzante quanto ci raccontò 2 settimane fa il presidente di Federchimica Squinzi, che è anche proprietario della Mapei, il tempo che ci aveva messo, 90 giorni in Spagna, a ottenere permessi e tutto rispetto agli anni, ai 4 anni passati in Italia per ottenere lo stesso permesso per un impianto. Ragazzi, così non si va da nessuna parte. Quindi le dice, i soldi non si possono toccare, ma le riforme, le liberalizzazioni, torniamo a parlare di liberalizzazioni a costo zero, quelle sì, fate le riforme economiche. Grazie, continueremo a ascoltare anche altre opinioni. Grazie intanto a Giacomo Vaciago, editorialista del Sole 24 Ore, nonché docente di politica economica alla Cattolica di Milano. Buonasera a tutti. E da Sebastiano Barisoni è veramente tutto, vi lascio la nostra programmazione, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.